Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Mona Lisa è il suo nome d'arte e si perde per un istante tra la musica delle piazze. Batte il sole sulle serrande, fuma sola ma intanto piange, sembra una molto più grande di me. Ma è una niña di mondo, figlia del porto, e balla sopra una cassa. Il cuore le insegna in fretta che non è più una ragazza. Odia le foto, sogna una moto che vada forte e basta. Scappa da un dio che parla il gergo della malavita. Malavita, malavita, malavita. Ti rivelo sopra un mare di cose, sotto i veli delle giovani spose. Gli occhi neri mi sembrano i tuoi. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, che non hai mai visto un mazzo di rose. Non sarà mica colpa del tuo nome. Tu non ami, tu fai solo l'amore. Tu non ami, tu fai solo l'amore. Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che osserva l'attualità e legge le notizie attraverso il filtro dell'animalità. La nostra promessa è quella di raccontare, attraverso fatti di cronaca che avvengono in Italia e nel resto del mondo, il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali. E intendiamo dire con questo che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa millenaria appartenenza. Siamo al fianco dei viventi non umani e oggi in particolar modo siamo al fianco degli animali esotici che lavorano forzatamente nei circhi non per loro scelta o costretti negli zoo o nei cosiddetti bioparchi alle nostre latitudini, subendo ancora quell'atteggiamento neocolonialista che la società occidentale esprime tutt'oggi verso viventi umani e non umani. Dovremmo chiederci che rapporto intendiamo avere in generale con il resto dei viventi, non necessariamente deboli, ma dominati e coerciti, perché è questo, solo questo, a definirci umani o disumani. Pare strano che finalmente siamo soli, ancora non balliamo, nemmeno per la mano mi dicevi, ma se poi invecchiamo, ancora no, ancora non lo so. Penso che ero contento, sentendomi con te, in controtempo, in controtempo. Nella puntata di oggi, la numero 746, parleremo della festa della mamma, una festa negata alle mamme non umane che entrano negli ingranaggi della zootecnia, a partire dalla vicenda dell'allevatore ucciso a cornate da una mucca alla quale lui stava portando via il cucciolo. Torniamo poi sulla vicenda degli eserciti schierati nei boschi a far la guerra ai cinghiali, sia perché il presidente Mattarella ha firmato questo disonorevole decreto, sia perché abbiamo da proporvi un commento da parte dell'autore e attivista Marco Reggio. In seguito andiamo a Mantova, dove un controfestival antispecista ha messo un dito nell'occhio al festival della zootecnia Food for Profit, che si è svolto in contemporanea nella stessa città. La ricetta della settimana, rigorosamente vegana, e la musica sono curate dal nostro eclettico tosco vegan chef Gabriele Palloni. Papà, facciamo patto, che non è che alle 12 sei completamente fatto. E racconti che ti sei sposato ma solo per ricatto, e sei venuto alle nozze ma in ritardo. Oh oh, ah ah, oh oh, perché in realtà tua mamma è un altro. Per i nonni che avevano già pagato tutto quanto, e per ripiccato non sei venuto a vedermi dopo il parto. Tu mi odi ma dimmelo con tatto. Oh oh, ah. È stata celebrata da poco la festa della mamma, così ipocritamente rispettata solo all'interno di cerchi di viventi ristrette e privilegiate. Alla condizione delle mamme che si vedono morire i figli e i mariti nelle attuali guerre, per esempio, viene messo il silenziatore. perché ci sono principi più importanti evidentemente da difendere. Il principio probabilmente della guerra giusta. E c'è un'altra categoria di mamme che non ha mai meritato il rispetto e tantomeno una festa, e sono le mamme animali. Quelle sfruttate nella produzione di cibo, le mamme ingranaggi dell'agrobusiness, insomma. Loro non hanno mai ricevuto riguardi e attenzioni. Di loro non si parla, la loro condizione ci imbarazza, perché sarebbe sgradevole prendere atto, per esempio, che le femmine abusate per la produzione del latte subiscono l'allontanamento dal vitello e che questa separazione è dolorosissima e comporta muggiti prolungati, pianti di mestizia e disperazione per entrambi, la mamma e il cucciolo, e che tale disperazione a volte si protrae per giorni. Nessuno vuole sapere e riflettere quando si prepara a gustare il suo cappuccino al bar. Ma talvolta la condizione di questi animali disperati, di questi spettri inesistenti, fatti nascere per subire lo sfruttamento e poi morire a loro volta nei macelli del mondo, buca quella cortina di ipocrisia. È accaduto il 9 maggio sera, un giovedì, quando un allevatore di Magnago, nella campagna del Milanese, un allevatore come tanti, dopo aver sfamato gli animali, ha deciso di portare via il vitello a sua madre. L'amore materno ha preso una forma di disperazione, di rabbia e furia e si è trasformato in una tragedia. L'uomo non ha avuto scampo ed è morto, ucciso dalle cornate di una di quelle madri escluse dal fortunato circolo di chi si può permettere una ricorrenza, una festa, e smuovere così il mercato con i mazzi di fiori, cioccolatini, e quando va bene magari ci scappa anche un gioiellino. Siamo in tanti a chiederci ora che fine potrà aver fatto quella madre. L'avranno già soppressa in quanto molesta e pericolosa? O l'avranno tenuta in vita perché è comunque un asset, un patrimonio, qualcuno che ha il latte da poter sottrarre e poi vendere, e quindi basta darle qualche giorno per calmarsi e poi via, verso nuovi gioiosi profitti. Qualcuno ha anche organizzato un mail bombing rivolto al sindaco di Magnago, supplicandolo di affidare questa madre a un santuario per animali. Perché lei e non un'altra, si potrebbe dire. Perché si è ribellata, perché ha fatto un gesto estremo, perché ha bucato la spessa corteccia che avvolge le nostre coscienze intorpidite. Non sarebbe un premio, certo, sarebbe un simbolo, un modo per riconoscere che salvandone una, ne stiamo dimenticando 1.000, 100.000, milioni. Questa vicenda ascoltiamo le considerazioni dei Troglodita Tribe. Giovedì 9 maggio, intorno alle 20.30, una mucca ha ucciso un uomo a cornate mentre tentava di portarle via il suo vitellino. Il fatto è avvenuto all'interno di un'azienda agricola familiare a Magnago, in provincia di Milano. La notizia è stata riportata da molte testate nazionali e locali come un fatto di cronaca, un tragico incidente sul lavoro, una fatalità accaduta senza un motivo particolare. In effetti, quello che ha compiuto l'uomo prima di essere ucciso è un gesto normale, ripetuto milioni di volte in ogni allevamento, che sia intensivo, estensivo, biologico, biodinamico, alternativo o in qualunque altro modo si possano definire questi luoghi. Stava separando il vitello dalla mucca, stava strappando un figlio a una madre, perché è così che funziona. Per avere il latte, per vendere il latte, occorre ingravidare una mucca, nella quasi totalità dei casi, artificialmente, operando una vera e propria violenza. Occorre farle partorire un vitello, portarglielo via e prendere proprio quel latte che era destinato proprio a quel vitello. Doveva finire il vitello? Se maschio, al natatorio. Se femmina, sarà destinata alla produzione del latte e, come sua madre, finirà al mattatoio dopo pochi anni di sofferenza, quando la sua produzione non sarà più sufficiente per gli standard di mercato. E tutte queste madri, in tutti gli allevamenti del mondo, piangono e urlano quando viene loro sottratto il figlio. Lo fanno sempre, manifestano in tutti i modi il dolore e il disappunto. Nonostante le numerose gravidanze imposte, non si rassegnano mai a questa separazione forzata, a questo atto cinico e ingiusto che violenta la loro natura. Non è quindi corretto descrivere la morte dell'uomo avvenuta nell'allevamento di Magnago come un tragico incidente dovuto a una sfortunata fatalità, dovuto a un animale improvvisamente impazzito. Sarebbe più onesto e doveroso raccontare invece che una madre ha reagito disperatamente con i pochi mezzi a sua disposizione, solo per difendere il proprio figlio che stava per esserle strappato. Forse cominciando a descrivere e a raccontare in questo modo le tantissime fughe, evasioni, morsi, calci, cornate, beccate che avvengono quotidianamente in tutti gli allevamenti del mondo, riusciremmo a comprendere meglio quel concetto eversivo chiamato resistenza animale. Una serie di atti con i quali da sempre gli animali fanno sentire la loro voce, con i quali manifestano il loro essere individui che aspirano alla libertà. Questi gesti di resistenza animale che avvengono quotidianamente in ogni angolo del pianeta sono gesti disperati che il più delle volte finiscono tragicamente anche per chi li compie. Sono gesti che testimoniano il feroce dominio che applichiamo su tutti i non umani. Un dominio intransigente, incapace anche solo di riconoscere le continue ribellioni degli animali che abitano insieme a noi su questo pianeta. E poi vorremmo negarle, cancellarle, censurarle, queste ribellioni. Vorremmo che le mucche fossero macchine da latte, macchine felici di darci i loro figli, il loro corpo, la loro vita. Vorremmo schiavi perfetti, in grado di tranquillizzare anche quel flebile senso di colpa per le mostruosità a cui siamo ormai assuefatti. È per questo che in molti allevamenti le corna vengono segate e c'è già chi studia a livello genetico come far nascere mucche direttamente prive di corna. È per questo che abbiamo inventato la cinica e demenziale definizione di benessere animale, di mucche felici, felici di essere usate, violentate, prosciugate, per poi essere macellate quando non servono più, felici di farsi rubare i figli, la libertà, la socialità, il latte, la carne, la vita, il sangue, le ossa. La notizia allora, quella vera, è che una madre non umana ha usato prendersi qualche riga di cronaca, qualche istante della nostra distratta consapevolezza. A colpi di corna ha provato a disobbedire, a dire di no. Il minimo sarebbe ascoltare questa voce, questa disperazione. Il minimo sarebbe riconoscere che si tratta di una voce potente e profonda. Per chi volesse approfondire, segnaliamo il blog Resistenza Animale, che raccoglie, studia, commenta e solidarizza da anni con i tantissimi episodi in cui gli animali si ribellano a un destino di oppressione che non è affatto scontato, normale o naturale, come in troppi vorrebbero farci credere. The show, let everybody know I'm done playing the game. I'll break out of the chains. You better buckle up. I'll pour another cup. This is my poem, so drink it up, my friend. You'll tell about life, but the good and the bad better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched. It's bigger than me, I'm getting so hyped. Like, whoa! Let me taste the lows and highs. I'm torniamo sulla questione del decreto legge che permetterà agli eserciti di entrare in campo, occupando i boschi e le zone verdi per attuare quella guerra ai cinghiali e al resto dei selvatici invocata da tempo dalle associazioni degli agricoltori. Lo facciamo proponendovi una riflessione curata da Marco Reggio, attivista antispecista e autore di molti libri, fra i quali ricordiamo Cospirazione animale, fra azione diretta e intersezionalità, edito da Meltemi. Basta poco per saltare, basta poco per salutare, basta poco per girare la testa un video un familiare, basta poco per annuire, basta poco per riannuire, basta poco per piacere senza dire per piacere, basta. Basta poco per non saltare, basta poco per non salutare, basta poco per non girare la testa a un video, un familiare, basta poco per non annuire, basta poco per non riannuire, basta poco per non piacere, allora dico. Il decreto legge che è stato proposto dal ministro Lollobrigida è particolarmente preoccupante. Si tratta di un decreto che è stato portato al Consiglio dei Ministri e approvato il 6 maggio. L'intento è abbastanza evidente ed è quello di individuare in relazione alla peste suina, all'interno di tutta una serie di provvedimenti per il sostegno al settore agroalimentare, individuare per la peste suina un capro espiatorio in qualche modo comodo, che sono i cinghiali, per mostrare anche all'estero, ai consumatori, diciamo a tutti i rapporti commerciali che esistono con una serie di attori, che la filiera agroalimentare suinicola in particolare è in qualche modo tutelata e controllata e messa in sicurezza. Quindi, poiché non si vuole puntare l'indice su un sistema che è quello dell'allevamento intensivo, evidentemente insostenibile sotto diversi aspetti, si punta l'attenzione sui cinghiali. In che modo? Il decreto prevede chiaramente, adesso in maniera esplicita, l'invio dell'esercito, l'uso dell'esercito, con 177 unità di personale delle forze armate che possono essere chiamate per un anno, poi rinnovabile, per abbattere, quindi diciamo più correttamente uccidere, perché di questo si tratta, di uno sterminio, uccidere i cinghiali. Quindi non sono sufficienti i cacciatori a cui si è ormai dato mano libera, ma appunto l'esercito. La cosa interessante, per così dire, cioè inquietante, è il fatto che l'esercito poi avrà dei poteri di fatto di polizia. Questo perché? Perché Lollobrigida ha già tenuto in conto l'aspetto repressivo, in qualche modo. Cioè ha considerato che appunto le associazioni animaliste possono opporsi in qualche modo, quindi fare anche attività di disturbo alla caccia, a queste operazioni militari, insomma. E quindi chiunque si opponga a questo tipo di operazioni potrà essere identificato, fermato, portato in caserma per 24 ore, eccetera. Quindi in questo modo, come dire, depotenzia anche la possibilità di un dissenso, per quanto pacifico e legale anche. Figuriamoci quando appunto questo dissenso, queste attività di disturbo superano anche, dal mio punto di vista, legittimamente il confine della legalità. È evidente che insomma si tratta di tutta una serie di dispositivi che colpiscono tutto l'ambito selvatico per sostenere un settore che non è solo quello dell'allevamento, ma anche quello dell'agricoltura in generale, che è devastante da diversi punti di vista. Un altro punto a cui ha pensato Lollobrigida e che è molto significativo è anche il controllo delle guardie forestali, cioè le guardie forestali, che in passato avevano anche collaborato con le associazioni animaliste, in alcuni casi almeno passano sotto il controllo del ministero. In questo modo anche qui si smonta, si depotenziano dei meccanismi di controllo che in qualche modo erano anche necessari, di attenzione a certe norme che almeno limitano il massacro. Quindi bisogna porre particolare attenzione appunto a questi tentativi che sono da una parte il massimo dell'antropocentrismo, dello specismo, e dall'altra sono però proprio si inseriscono in una linea repressiva evidente di questo governo. Mi è sembrato il paradiso, ho paura che mi hai ucciso. Volevo solo l'amore, tu mi hai riempito la bocca di te. Se sono solo parole, parole, potevi darti da fare un po' di più. Come diceva mia madre, non mi dovevo fidare di te. Mentre prepariamo questa trasmissione, si sta preparando a Mantova un convegno dal titolo Food for Profit. Il titolo stesso per noi persone antispeciste non può che essere inquietante, traducendosi di fatto nell'ennesimo festival della zootecnia. Ma per fortuna non c'è solo acquiescenza e collaborazionismo, ci sono anche autorevoli voci di critica e denuncia, che si riuniranno nella stessa città in un controfestival organizzato proprio in ambito antispecista. Sentiamo il servizio a cura di Leonora Bocchi, attivista antispecista di Mantova. Forse avrò pensato a te senza avere le risposte, camminando su una via fatta con le foglie morte, dietro gli angoli della mia mente te ne va, senza illudermi che anche stavolta tornerà, dietro gli angoli della mia mente te ne va, senza illudermi che anche stavolta tornerà. Il grande problema dietro questo festival ha a che fare con i suoi ideatori e con gli sponsor e i partner che ci sono dietro. L'organizzazione di questo festival è totalmente in mano a Confagricoltura, nonostante gli ideatori appartengano a un gruppo di divulgatori scientifici dal nome Frame. Se dobbiamo parlare di partner, dobbiamo per forza elencare Grana Padano e Parmigiano Reggiano. Se parliamo invece di sponsor, non possiamo non citare Inalca, la più grande azienda di macellazione d'Italia, Levoni, Salumificio, e Granarolo, anche in questo caso grande azienda casearia. Sono sponsor problematici, sono sponsor che ci hanno portato a ideare un controfestival, perché pensiamo che sia necessario parlare dei legami tra cibo e scienza, parlare di cambiamento climatico, o per meglio dire surriscaldamento globale, come si sono proposti di fare loro in questi anni, ma non con queste grandi aziende dietro. Siamo convinte che non possa esserci un discorso scientifico laddove ci sono i finanziamenti delle multinazionali dello sfruttamento animale. Noi abbiamo invitato invece a Mantova negli stessi giorni, ma in un posto molto più modesto, ma sicuramente militante, ovvero un circolo ARCI, il circolo ARCI Papacqua per la precisione, che si trova comunque nel centro di Mantova. Abbiamo invitato, dicevo, esperti del mondo scientifico, del mondo anche animale, penso per esempio a un'etologa, e esperti del mondo agricolo, penso alla comunità agricola terrestre dalla Romagna che verrà a trovarci e a raccontarci un modello di agricoltura diverso. L'etologa che vi nominavo poco fa, Alessandra Alterisio, ci parlerà invece di cinghiali, della persecuzione che ormai colpisce questa specie accusata di invadere le nostre città, come se non ci fosse nessuna responsabilità umana dietro questo cambiamento che sta portando i cinghiali ad addentrarsi nelle nostre città. Abbiamo invitato esperte, studiose, filosofe del mondo dell'antispecismo, abbiamo invitato rifugi antispecisti, penso ad AgriPunk in Toscana, penso alla Capra Campa in Piemonte, penso anche a quelli che saranno presenti con noi non tramite interventi e conferenze, ma tramite banchetti con i loro gadget, il loro abbigliamento militante, penso quindi alla rete dei santuari liberi, a Porci Comodi, un santuario storico, insomma, che ha una lunghissima tradizione alle spalle, uno dei primi in Italia, e penso a Giulia Di Loreto, che presenterà il suo libro Filosofa, un libro sulla storia dello specismo. Parliamo di antispecismo, dobbiamo conoscere anche lo specismo. Penso a delle realtà militanti che hanno a che fare con l'ambientalismo, con l'ecologismo, con l'antispecismo e che ci spiegheranno perché food and science non va bene, perché l'allevamento in generale è un rischio. Anche per la salute umana, penso alle zoonosi, sarà con noi un infettivologo in diretta dal Kenya, sarà con noi un biotecnologo, sto parlando di due attivisti di Scientist Rebellion, un gruppo di scienziati di Extinction Rebellion, un movimento che agisce tramite la disobbedienza civile non violenta. Penso a Ribellione Animale, un gruppo che agisce con le stesse modalità, mettendo al centro del discorso l'antispecismo, la necessità di passare a livello globale a un sistema alimentare a base vegetale. Insomma, tre giorni di antispecismo, di lotta, di militanza, per comprendere cosa di politico c'è in tutto questo. ma dimmi che sapore ha, che so che tu sai di veleno e col veleno mi avvelenerò. Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te. Abbiamo chiesto al tosco vegan chef Gabriele Palloni di proporre oggi una ricetta fuori dalla logica del food for profit, più vicina alla logica del soul food, cibo per l'anima. La ricetta della settimana è dedicata alla città di Mantova che ci piace, quella dei sapori squisiti, ma vegani e cruelty free, senza derivati animali. Sentiamo la proposta del nostro chef. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Isabella d'Este, marchesa di Mantova, di passaggio a Firenze alla corte dei Medici, lasciò come segno di ringraziamento per l'ospitalità ricevuta la ricetta della torta che si chiamò appunto Mantovana. Gli ingredienti per una tortiera da 26 cm di diametro per la torta mantovana sono 300 ml di acqua, 250 g di farina tipo 0, 30 g di fecola di patate, 30 ml di olio di semi di girasole, 120 g di zucchero di canna chiaro, 50 g di mandorle a lamelle, 8 g di crema or tartaro o lievito per dolci, un pizzico di bicarbonato, un cucchiaino di aceto di mele, un pizzico di sale e un pizzico di curcuma in polvere. In una bowl unite l'acqua, l'olio, lo zucchero, la curcuma e il pizzico di sale. A parte, in un altro recipiente unite la farina, la fecola e il crema or tartaro setacciati. Unite la parte solida a quella liquida tutta assieme, mescolando con una frusta. Infine aggiungete il bicarbonato e sopra di esso l'aceto di mele, vedrete formarsi delle bollicine per la reazione. Quindi mescolate rapidamente un'ultima volta e versate il composto in uno stampo precedentemente oleato e infarinato. Cospargete la superficie della torta con le mandorle a lamelle fino a ricoprirla tutta. Infornate in modalità statica a 180 gradi per circa 40 minuti. Sfornate, lasciate raffreddare e servite spolverizzando con dello zucchero a velo se lo gradite. Vi ricordiamo che Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina. L'ultimo, edito da Newton Compton, si intitola Se vuoi essere sano, cucina vegano. La terra è terra, pure senza radici, pure se non mi tiene attaccata a terra e mi sporca i vestiti. Mo che te ne vai, ricordati della terra. La fila per l'ostia, tutti a bocca aperta. La casa che ti caccia di casa presto. Tanto costa capo e vierne piedi dentro la fossa. Sì, lo so che il sangue è sangue. Ma ci sono vampiri e ci sono famiglie che perdono sangue e famiglie felici. Alberi che crescono senza radici e tarantelle lontane scivolano giù al mare. Più giù, io ho imparato a bussare, lo giuro. Cercano il veleno nella spazzatura fuori dalla porta della nostra casa. Trovano soltanto 400 mozziconi di ospiti impegnati ad abbracciare mamma. Ne conosco pochi, forse nemmeno mi importa, ma sorrido e chiedo, volete un bicchiere d'acqua? Stringono i miei zigomi più forte negli spazi tra le nocche e le vecchie signore in fila indiana. Per questa puntata è tutto, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Camilla Lattanzi, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Zenone Sovilla, Roberta Marino, Francesco Pagnè e Lorenzo Guadagnucci, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 747 di Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.